quest'anno il tema unico, facciamo tutti gli anni un tema, almeno fino adesso abbiamo fatto così, che poi diverse persone, diversi relatori trattano ciascuno a modo suo. Quest'anno il tema era essere discepoli di Gesù, no? In sostanza. Quest'anno l'ultimo step è dedicato ai salmi, ci chiedevamo come lo infiliamo. Beh, Gesù pregava con i salmi, forse sapere come pregava, quelle parole che facevano parte del suo immaginario, della sua mente, forse vale la pena. Ecco. Comunque, siamo all'ultimo step, Franca ci ha consigliato, Luciana Ruatta, che noi non conoscevamo, io venendo mi sono guardata su internet, ma chi è, vediamo un po', e ho scoperto che è laureata in chimica, docente di chimica applicata al restauro. A me fa molto piacere una persona con una solida base scientifica che si occupa di teologia, perché appassionata di teologia ha conseguito il baccalaureato in teologia con una tesi sulla distribuzione dei salmi nella liturgia delle ore, perché si occupa mi stava dicendo adesso, l'interesse è stato dal canto, è passata alla liturgia e poi insomma tutto è andato una reazione a catena ed eccola qua. Offre un po' la sua competenza alla diocesi di Torino, non so bene in quante occasioni. Oggi l'occasione è tutta nostra perché offre la sua competenza a noi, che ce la prendiamo, l'ascoltiamo molto volentieri. E adesso la parola. Volevo ancora, chiedo 2 minuti ancora, oltre che salutare tutti, credo che quasi tutti ci conosciamo, volevo chiedere a Padre Mario Barbero, un missionario della Consolata, che io ho conosciuto un mese fa alla Certosa di Pesio. Perché l'ho conosciuto? Perché lui è stato molto amico di Don Giorgis, negli anni in cui Don Giorgis ha insegnato Sacra Scrittura a Torino, non solo amico, ma anche lui era ed è un biblista e all'epoca insegnava anche lui Sacra Scrittura a Torino, no? Poi è stato all'estero, eccetera, eccetera, quindi mi ha fatto molto piacere incontrarlo tramite un missionario della Consolata molto più giovane, che anche lui aveva conosciuto Don Giorgis come ragazzo scout, gli ha fatto vedere il libro che abbiamo scritto sulla figura, sul pensiero di Don Giorgis, è stato entusiasta e oggi è qui con noi. Padre Paolo. Non so cosa devo dire, sono compagno, collega di Don Giorgis quando io ero più giovane e lui era un briciolino più anziano di me, ma siamo negli anni 69-75, insegnavamo insieme a Torino, ma eravamo anche amici perché lui insegnava presso Missione Consolata al nostro seminario, era molto amico anche degli studenti, dei seminaristi, quelli che erano seminaristi allora adesso sono già tutti, anche di uno qua già in paradiso, qualche di uno anche vescovo, qualche di uno è stato 30 anni, 40 anni d'Africa, però hanno un ricordo di lui e io poi ho perso le tracce. Io sono andato via dal 76 e sono tornato nel 2000 qualcosa, sono stato prima in Kenya, poi negli Stati Uniti, poi in Congo, poi sempre insegnato Bibbia qua e là, aveva anche lavorato con le persone, però adesso quando ho visto questo libro ho scoperto quello che Giorgis faceva proprio al di là della parte accademica, del portare la Bibbia alla gente, a farlo spiegare i temi biblici, renderli comprensibili, insomma mi ha veramente colpito questo libro, l'ho divorato in 2 giorni, solo quello. Sono contento che la sua eredità continui con questi programmi. Io sono rientrato 1 anno e mezzo fa dal Sudafrica e non sapevo di tutta questa. Sono contento che continui. Grazie. Facciamo una piccolissima prova di canto per cominciare. Fa che ascoltiamo. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Signore, la tua voce. Camminare un po' di più. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce, la tua voce, oh Signore. Dico qualche parola anch'io di introduzione. Grazie tantissimo di questo invito. Lo considero un grandissimo onore, perché quando avevo conosciuto Franca tanti anni fa ero venuta qui ad ascoltare Don Giorgis, quando ancora questi incontri li faceva lui, e ancora cerco i suoi libricini in biblioteca, quindi grazie. La mia biografia un po' l'ha detta la Presidente. Non sono biblista, però Ho una grande passione per l'ebraico, che ho studiato molto. Poi, come sapete, le lingue devono essere esercitate, queste lingue semitiche, quasi ogni giorno, no? Per essere, quindi adesso diciamo la vita poi ha preso un po' il sopravvento, ma mi è rimasta questa grande passione, e quindi anche molto per l'Antico Testamento. E quindi così ho pensato, siccome la mia amica Laura Verrani è venuta a farvi un incontro, mi ha raccontato che le è piaciuto molto, poi sapevo, ho pensato di proporre una cosa sui salmi, no? Perché appunto per la tesi di bacellierato, che è un lavoro piccolo, ho avuto la grazia di lavorare sulle carte del Cardinale Pellegrino, che ha partecipato a quella grandissima opera che si chiama Riforma liturgica. Cioè, il Concilio Vaticano II ha detto due cose, no? I principi. Poi bisognava rifare i riti, no? Un lavoro immane, con centinaia di esperti radunati a lavorare per 10 anni, cioè una roba pazzesca, no? Ecco, allora mi sono occupata di come i salmi sono stati distribuiti nella liturgia delle ore. È stato un po' un pretesto per appunto andare a guardare nell'archivio Pellegrino. Quindi il mio interesse per i salmi è, come si diceva, no? Perché hanno attraversato la storia e sono state le parole della preghiera del popolo di Israele, di Gesù certamente, dei suoi discepoli, di tutte le comunità cristiane. Però hanno uno spessore esistenziale che, a mio parere e non solo, potrebbe essere una porta di accesso, diciamo, per tutti, no? Una vividezza esistenziale capace di parlare anche a chi non è familiare, no? Con le dinamiche dei riti liturgici della Chiesa Cattolica, che a volte sono anche piuttosto complessi. Quindi ho proposto a Franca. Poi, quando ci siamo sentite, mi ha detto: ma questo è l'ultimo incontro di un percorso sul discepolato. Allora ci ho pensato un po' e ho provato a fare per voi una operazione che ho intitolato Essere discepoli secondo i salmi. Quindi, dal mio discorso, che più o meno diciamo avevo pensato di farvi, ho cercato di trarre una conclusione, cioè quale ritratto del discepolo emerge dai salmi. Quindi sarà la nostra sintesi. Certamente ritroveremo degli aspetti che avete già visto, ma magari i salmi ci daranno anche uno sguardo un po', diciamo, da un punto di vista diverso. La nostra mattinata si articola così, facciamo una piccolissima preghiera che ho preparato io perché ho usato il salmo che parla della Torah e quindi già ci introduce nel tema, quindi preghiamo con un salmo. E dunque, i fogli non sono sufficienti, quindi se siete senza potete guardare il foglio del vicino, oppure partecipate con il ritornello, non c'è problema, ci aggiustiamo, ascoltate e partecipate con il ritornello. Vedete che c'è scritto a due cori, quindi le donne fanno il primo coro e le voci maschili il secondo coro. È molto semplice. Poi io vi farò un'introduzione generale ai salmi adesso, cercherò di non dilungarmi, ho dato a Franca uno schema piuttosto articolato dove c'è un po' tutto quello che dico, quindi vado anche un po' velocemente, perché mi interesserebbe darvi la parola, no? Un po' per sentire le vostre osservazioni o domande. Poi vi propongo, prima della pausa, anche questo molto brevemente, di suddividerci velocemente, così a gruppetti, 3 o 4 persone, per leggere il testo di un salmo. E ho preso dei salmi un po' inconsueti, quelli che normalmente, poi lunghi anche, no? Quindi diciamo l'esercizio è leggere il salmo. Cercare 2 o 3 parole chiave, diciamo non mi interessa fare un lavoro, no? Leggere per rendersi conto, diciamo che sono complicati e che spesso li prendiamo in modo superficiale. Pausa. Dopo la pausa vi propongo una breve lezione di 3 salmi. Ho preso il primo, salmo 1, l'ultimo, 150, e poi il salmo 133 che parla della vita comunitaria. Com'è bello che i fratelli vivano insieme, eccetera, eccetera. Perché da questi salmi e dall'introduzione cercheremo di tracciare appunto un po' qualche linea del discepolo di Gesù, così come ci viene proposto, suggerito, evocato dai salmi. Va bene? Cominciamo il nostro incontro mettendoci alla luce della parola di Dio. Possiamo stare seduti. Perché stai assente? Parola di Dio, non stare lontano. Parola di Dio che fai ritornare. Parola di Dio che vinci ogni male. Parola di Dio che sei libertà. Parola di Dio, abbatti le sbarre. Perché tanti schiavi? Parola di Dio, abbatti le sbarre. Parola di Dio, divina alleanza. Parola di Dio che dici il perdono. Parola di Dio, messaggio di pace. Parola di Dio, rovescia la morte. Perché tanto odio? Parola di Dio, rovescia la morte. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce, la tua voce, oh Signore. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Ho scelto la via della fedeltà, mi sono proposto i tuoi giudizi. Ho adempiuto ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non debba vergognarmi. Corro sulla via dei tuoi comandi, perché hai allargato il mio cuore. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti, e la custodirò fino alla fine. Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità. Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce, la tua voce, oh Signore. Preghiamo. A quanti camminano nei cortili della tua casa, accorda, o Dio onnipotente, l'abbondanza della pace. Così, confessandoti con tutto il desiderio del nostro cuore, riceveremo i tuoi beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Mi alzo in piedi. Allora, come dicevo, i salmi hanno sostenuto e attraversato la storia, dando a generazioni di uomini e di donne le parole per la preghiera. Quindi anche noi ci mettiamo un po' al seguito, no, di questo esercito di generazioni e rapidamente lo percorriamo, cercando però dei significati che diano a noi, no, uno sguardo più profondo, diverso, inconsueto sul mondo dei salmi. La Bibbia ebraica è un po' diversa dalla Bibbia cristiana. Viene normalmente divisa in tre parti. La prima parte, la più importante, si chiama Torah, i cinque libri. La seconda parte raccoglie gli scritti profetici, che nell'ebraismo comprendono anche dei libri che noi consideriamo storici, pensate, non so, alla storia di Davide, i libri dei re, eccetera, dove però agiscono dei profeti. In ebraico la parola profeta comincia con la N, quindi T, Torah, N, Navi. Poi ci sono altri, si chiamano gli scritti. Tutto quello che non cade nella categoria precedente, quindi un gruppo eterogeneo, i libri della la sapienza, quei libri, i proverbi, i libri sapienziali, il Cantico dei Cantici, Giobbe, i Salmi, quindi un gruppo eterogeneo. In ebraico scritti comincia con la C, Ketuvim, quindi T-N-K. La Bibbia ebraica si chiama Tanakh. Quella che abbiamo in mano noi fa riferimento invece alla traduzione greca, quella che si chiama dei 70, per dei motivi che capiamo facilmente. I libri non sono esattamente gli stessi e i profeti sono stati posti in un'altra posizione, prima del Nuovo Testamento, no? Per evidenziare questo carattere di precursori. Quindi i salmi appartengono a questa terza parte degli scritti e anzi di questa terza parte forse sono considerati il libro più significativo, più ricco, più interessante. In ebraico il libro dei Salmi si chiama Sefer, libro, Tehillim, lodi, libro delle lodi. Poi ne parliamo. In greco psalmos, una composizione poetica da accompagnare con uno strumento. Quindi, diciamo, la natura propria dei salmi sarebbe quella di essere cantati. Nella Bibbia spesso viene detto che il re Davide, che tradizionalmente, no, è considerato, diciamo, il padre dei salmi, anche se sicuramente non li ha scritti tutti lui, cantava e danzava, se ricordate, no? Anche, quindi aveva delle espressioni anche molto corporee. Nelle miniature, nei quadri, viene raffigurato con uno strumento musicale in mano. Quindi, libro delle lodi, tradizionalmente attribuiti a Davide, dice il Midrash, cioè il commento alla scrittura, Mosè ha donato a Israele i 5 libri della Torah, i più importanti. Davide i 5 libri dei Salmi. Quindi vedete che c'è un forte parallelismo tra la Torah, il cuore dell'insegnamento di Dio a Israele, e i Salmi, come se i Salmi ne fossero una riespressione, un'altra modalità di espressione. La Torah detta in un altro modo, con la poesia e, come dicevo all'inizio, con una fortissima connotazione esistenziale, persone che si rivolgono a Dio, persone, un popolo che si rivolgono a Dio. Quindi da sempre il libro dei Salmi è considerato una specie di riassunto della Torah, una densa sintesi della Torah, e quindi come tale ha sempre rivestito un ruolo centrale nell'esperienza di Israele e anche dell'ebreo. Vi ho scritto lì, in grassetto, l'ebreo dei Salmi. Questa è un'espressione che ho trovato in un libro che poi vi farò vedere. Vi vedete, vi ho portato un po' di libri. Quelli che erano semplici, che non disponevano degli strumenti intellettuali per studiare la Torah, che diciamo è un'operazione impegnativa anche dal punto di vista intellettuale, pregavano i Salmi, no? E questo autore che si chiama Green, che fa una specie di glossario dell'ebraismo, ricorda che forse si può essere buoni ebrei anche senza conoscere tutti i minimi dettagli della Torah, ma no, non si può essere degli ebrei autentici se non si pregano i Salmi, no? Quindi proprio un dei testi profondamente radicati nell'esperienza ebraica e nell'esperienza di Israele. La voce più suadente di tutte, viene ricordato, lo vedrete, quindi da sempre vengono considerati come un unicum all'interno della Bibbia. Dico una parola sul numero, magari lo sapete già, e a volte c'è un po' di confusione perché se guardate la Bibbia, molti salmi sono indicati con due numeri. Spesso il secondo numero, nella parentesi, è un'unità in meno. Anche qui abbiamo due Bibbie, abbiamo la Bibbia ebraica, quindi il primo numero è quello della Bibbia così come noi l'abbiamo ricevuta dall'ebraismo. Il secondo numero è quello della Bibbia dei 70, a cui i cristiani hanno fatto riferimento. Quello fra parentesi. E spesso è uno di meno, perché i 70 cosa hanno fatto? Un paio di volte hanno appiccicato insieme due salmi, oppure un'altra volta ne hanno preso uno e l'hanno diviso in due. Non dobbiamo chiederci perché, sono quelle che hanno fatto un'interpretazione, una cosa di tradizione, chi lo sa. Quindi se ne vedete uno solo vuol dire che i due numeri coincidono. Allora, quando si fa una lezione sul salmo, almeno io mi regolo così, quando faccio una lezione sul salmo, io in genere faccio riferimento al numero ebraico, lo prendo qua dentro, nell'ordine del libro, importante. Invece se io apro il libro della liturgia delle ore, lì i salmi discendono dalla tradizione cristiana, dunque voi nel libro delle liturgie delle ore troverete un solo numero che sarebbe quell'altro, no? Quindi la confusione diciamo abbastanza somma, no? Ecco, quindi poi uno a volte si aspetta un salmo, va a leggere l'inizio e dice, ma aspetta, non è mica questo, no? Ecco, quindi non c'è problema, basta solo, diciamo, conoscerne il senso. Quindi, come vi dicevo, nell'ebraismo, forse la forma più interessante, no? che racconta la relazione tra Israele e il suo popolo, molto importante, la parola che Dio rivolge al suo popolo, sempre, anche oggi, invoca risposta, non è mai un monologo. La parola di Dio chiama sempre una risposta, in vari modi. E i salmi sono anche questa risposta. Quindi voi già vedete il paradosso di un testo che appartiene alla parola di Dio, in questo senso lo riceviamo, ma che serve a noi per rispondere a Dio. Quindi molti autori si sono soffermati su questo loro duplice carattere, parola di Dio e parola umana insieme. Quindi dentro questo groviglio poi ci sono anche delle espressioni che ci sembrano, diciamo, più divine, e poi delle espressioni invece che ci sembrano molto umane, no? Se uno davanti a Dio grida e gli dice: mi hai abbandonato, no? Uno dice: mamma mia, che toni, no? Ecco, e anche peggio, no? Quindi accogliamo questo loro duplice carattere. Quindi l'ebreo dei Salmi lo prendo come spunto, perché noi poi ragioneremo sul discepolo secondo i Salmi. Fino a circa 30 anni fa il libro dei Salmi veniva diciamo, tagliato, ogni salmo veniva come se fosse un mazzo di carte, no? Chi si è occupato un po' di studio della scrittura sa che in quegli anni veramente questo lavoro veniva fatto anche sui Vangeli, sul Nuovo Testamento, cioè c'era questa preoccupazione di risalire alla struttura del testo e a come si era, diciamo, composto. Oggi sappiamo che oltre a questa lettura molto interessante è necessario anche prendere il testo così com'è, come ci è giunto, e metterci davanti. E lo stesso lavoro è stato fatto con il libro dei Salmi. Quindi per moltissimo tempo i Salmi sono stati fondamentalmente divisi in categorie: la supplica individuale, la supplica di popolo, lamento, lode, giubilo, richiesta di perdono. Quindi i Salmi venivano, diciamo, incasellati indipendentemente dalla loro collocazione dentro il libro, dal loro ordine, che non sarà casuale. Quello che ha composto questo libro a un certo punto ci si è resi conto, probabilmente anche lui ha voluto raccontare una storia in un modo un po' particolare, però anche lui ha raccontato una storia, anche lui ha raccontato la storia di Israele con il suo Dio, come, diciamo, tutti i libri dell'Antico Testamento fanno, no? E allora gli studiosi hanno cominciato a studiare i Salmi da un punto di vista, si dice, canonico, cioè così come sono collocati nel libro dei Salmi. Ad esempio, quando io prendo un Salmo, comincio a guardare cosa c'è prima e cosa c'è dopo, come si fa con le pericopi del Vangelo, no? Quindi niente di, diciamo, di eccezionale. E allora si è cominciato a vedere che forse quella cosa che diceva il Midrash, no? 5 libri della Torah, 5 libri dei Salmi, forse all'interno del libro dei Salmi noi possiamo riconoscere 5 libri. E come si fa a delimitarli? Lo vedrete poi sulla dispensa che recupererete in elettronico, perché si è notato che in certe posizioni c'è una dossologia, una dichiarazione di gloria, benedetto, che ritma, come quando noi in fondo al Salmo diciamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Allora hanno detto: ah, qui c'è un elemento di rottura. Lì vicino c'è la parola beato. Ci soffermeremo su questa parola, perché è la prima parola del libro, è la prima parola del Salmo 1. E quindi gli esegeti in questo modo hanno ipotizzato che questo libro possa essere suddiviso in 5 libri come la Torah. Poi hanno provato a guardare il movimento che c'è dentro questa serie di 150 e hanno riconosciuto non una miscela, lode, supplica, individuale a caso, ma hanno riconosciuto un movimento molto interessante per noi, un movimento verso la lode. Quindi il titolo: Libro delle Lodi. Come sono messi questi salmi? Raccontano una storia. E questa storia come si apre? Si apre, cioè ci sono situazioni drammaticissime, gravi sofferenze, malattie, quello che rischia di annegare, la morte, i nemici, le bestie, tutto questo. Però l'apertura è sulla lode, no? Quindi vedete che il libro dei Salmi ci consegna uno sguardo su come interpretare l'esistenza e il rapporto con Dio, un percorso che attraversa luci e ombre, molta oscurità anche, ma che rimane sempre orientato alla lode. Magari questa lode adesso non si vede, non c'è, non posso lodare, perché sono quasi morto. Quindi dirò delle altre cose, aiuto, annego, mi ammazzano, però la direzione è sempre la lode. Questo vedremo che forse è uno spunto che anche noi possiamo accogliere per noi. Facciamo un salto, Gesù, i suoi discepoli naturalmente, come stretti appartenenti all'ambito ebraico, pregavano i salmi, ne erano, diciamo, erano familiari. Ci sono degli autori che hanno cercato nel Nuovo Testamento tutte le citazioni dei salmi. Avete presente, per esempio, nella Bibbia di Gerusalemme, nel margine ci sono tutta una serie di riferimenti, no? Ma anche allusioni, assonanze, e si sono resi conto che i salmi sono fondamentali per il lessico del Nuovo Testamento. Sono dei testi che sicuramente rivestivano un'importanza centrale nell'esperienza di Gesù, che sicuramente li ha pregati, e dei suoi discepoli. C'è un elemento sintomatico. In tutti i Vangeli, le ultime parole di Gesù in croce possono essere messe in relazione con i salmi. Nel Vangelo di Matteo e di Marco dice quella frase: mio Dio, perché mi hai abbandonato?, che viene dal Salmo 22. Nel Vangelo di Luca dice: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, il Salmo 31, trovate poi tutto segnato. Nel Vangelo di Giovanni, un po' più, diciamo, un po' meno esplicito, ma anche qui sia la divisione delle vesti che la sete, l'arsura è un tema tipico dei salmi di sofferenza, questa persona che ha sete, questa sete a un ebreo familiare con i salmi, diciamo, dava un riferimento molto chiaro. Quindi anche nel Vangelo di Giovanni questi particolari indicano un richiamo ai salmi, però qui abbiamo fatto un passo avanti, perché i salmi ricevono un'interpretazione cristologica, vengono riletti alla luce di Cristo, e Gesù stesso fa questa operazione quando cammina con i discepoli di Emmaus. Dice che loro non capivano niente, no? Fondamentalmente non avevano capito niente. Dice: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge, la Torah, nei profeti, Nevi'im, e nei salmi, Ketuvim. Quindi vedete che anche Gesù qui fa riferimento a tutta la scrittura, e per la terza parte dice che, diciamo, il libro rappresentativo sono i salmi. Quindi noi possiamo leggere tutti questi riferimenti del Nuovo Testamento come un'interpretazione che la comunità cristiana ha fatto dei salmi alla luce dell'esperienza pasquale di Gesù e della sua vita. Quindi ritroviamo questi riferimenti ai salmi anche nel libro degli Atti, no? Quelli in cui ci vengono narrate le predicazioni dopo la risurrezione. Anche qui avete dei riferimenti molto interessanti. Il Salmo 117, la pietra scartata dai costruttori, questo è il Salmo di Pasqua, e non è un caso che sia stato riferito a Gesù. Insomma, ci sono delle cose interessanti. A leggere il Nuovo Testamento con questa chiave si fa vedere come veramente i salmi dessero le parole alla comunità cristiana. Aperta parentesi, che differenza c'è tra leggere un brano qua e ascoltarlo nella liturgia? Avete presente? Nella liturgia i brani non stanno, diciamo, al loro posto nel libro, ma vengono tagliati, un po' come si faceva con i salmi, no? Presi, accostati, La tradizione della Chiesa ha proseguito in quest'opera di interpretazione e di rilettura cristologica. Quindi ci propone di percorrere la scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento, alla luce di Gesù. Quindi quando noi ascoltiamo tre brani la domenica e poi il Vangelo, diciamo, ci viene proposta una particolare lettura della scrittura alla luce dell'esperienza di Gesù. Quindi sono due modi di leggere la scrittura complementari che evidenziano aspetti diversi. Questa interpretazione prosegue moltissimo nell'epoca patristica. Le opere più significative che i padri scrivevano, che i padri della Chiesa scrivevano, erano commenti alla scrittura, omelie, commentari, no? Quindi abbiamo una mole di materiale, e anche loro proseguono in questo percorso secondo un'interpretazione che noi chiamiamo tipologica, cioè loro vedono negli episodi dell'Antico Testamento un'anticipazione di quello che poi succederà con Gesù Cristo, no? Quindi rileggono la storia della salvezza alla luce di Gesù con questa modalità particolare che, diciamo, oggi non potrebbe essere adottata per una lettura scientifica, se vogliamo usare questo termine, della scrittura, no? È una lettura evocativa, spirituale, molto interessante, però che ovviamente deve essere tenuta insieme anche con la lettura dal punto di vista ebraico, con la storia del testo, eccetera, eccetera. Quindi loro fanno un'operazione molto semplice, cioè ritengono che i salmi sostanzialmente parlino di Gesù Cristo. Tutto quello che viene detto nei salmi parla di Gesù. Quindi lui è il salmista per eccellenza, Agostino lo chiama Cantor Psalmorum. Ilario di Poitiers dice così: qualunque sia la persona in cui lo spirito di profezia ha parlato, quello che parla nei salmi, tutto ciò è stato detto in riferimento a Gesù Cristo. Quindi in questi commentari molto interessanti, qualcosa leggeremo, noi vediamo che il salmo viene sempre riletto alla luce di Gesù. Questa interpretazione cristologica, cristiana, prosegue fino ai giorni nostri. Ho trovato un testo di Bonhoeffer che si chiama Pregare i salmi con Cristo, molto interessante, dove lui si sofferma proprio su questo paradosso che dicevamo, no? Parola di Dio, ma come mai nella Bibbia c'è un libro di preghiere? Così dice. Ma di solito la Bibbia è la parola che Dio rivolge a noi. Invece qui abbiamo dei testi dove è l'uomo che si rivolge a Dio. Questo è veramente un paradosso. Se ci pensate, lo viviamo anche noi nella messa domenicale, anche in quella feriale, quando c'è una lettura a cui segue un salmo. Quel salmo non è una lettura, è una risposta, però è parola di Dio, no? Come se Dio dicesse: voi siete un po' balbettanti, non siete capaci di trovare le parole, no? Lo dice anche San Paolo nella lettera ai Romani, ve le do io le parole, no? Ve le metto in bocca io per insegnarvi a pregare. Quindi c'è tutta una riflessione praticamente sul fatto che questa duplice natura, se vogliamo dire così, no? Umana e divina, naturalmente in Gesù trova la sua, diciamo, unificazione. E se pensiamo a Gesù sulla croce, che come dicevo ha detto come ultima parola un versetto di un salmo, possiamo anche comprendere che Gesù in croce porta su di sé tutte quelle espressioni un po' sconvenienti, di grave sofferenza e di grido che i salmi hanno e che a volte un po', diciamo, ci disturbano, no? Noi possiamo pensare che in quella situazione Gesù sia accollato veramente nella sua intierezza tutta la sofferenza di tutti gli uomini e le donne che nel tempo, no, hanno gridato davanti a Dio che, diciamo, che morivano, che soffrivano. Faccio ancora un passetto e vado già quasi verso, diciamo, con un pezzettino. E, come vi dicevo, sono rimasta colpita, non solo io, dal grande spessore esistenziale dei Salmi. Credo che questa possa essere una porta, no, anche nel nostro tempo, per chi cerca parole per mettersi davanti a Dio e fa fatica a trovarle, no, nelle forme abituali della, diciamo, della preghiera liturgica, o anche chi proprio non frequenta la preghiera liturgica, ma cerca parole per la preghiera. E sono stati fatti molte riflessioni sul fatto che il libro dei Salmi ci offre uno spaccato della vita in tutti i suoi aspetti. C'è un bel libro di Alberto Mello che chiama il libro dei Salmi il libro della vita. Dentro c'è tutta la vita, tutte le età, tutte le esperienze, tutto. Secondo aspetto, il Salterio ci dà le forme della preghiera, le forme elementari della preghiera: invocazione, supplica, lamento, lode. Queste sono le forme della preghiera che noi pratichiamo in molte situazioni, no? Sono gli atteggiamenti con cui ci si può mettere davanti a Dio, a seconda di quello che si vive. Quindi qualsiasi forma che poi, diciamo, è confluita, no, nei riti o anche nella nostra preghiera personale, trova, diciamo, nei Salmi il suo modello, la sua origine. Quindi anche da questo punto di vista abbiamo una grande ricchezza che va dall'oscurità più scura fino, vedremo, Salmo 150, a una lode senza confini. Quindi con tutta, diciamo, la gamma delle sfumature che ci sono tra un estremo e l'altro, no? Quindi il modello della preghiera, tutto il vissuto umano, i poveretti, quelli che non speravano niente, quelli che davanti a Dio stavano con la testa giù e la schiena curva, come quel pubblicano, avete presente, che il fariseo si mette in prima fila così dritto, dice a Dio: io so già tutto, no? Quell'altro poverino si mette in fondo così curvo e non osa neanche. Ecco, questi sono proprio i soggetti tipici dei Salmi, di chi si mette davanti a Dio consapevole della sua inadeguatezza. Anche questo forse ci potrà servire, no? Per la nostra sintesi. Quindi, come dicono i padri, no? Ogni libro delle scritture ha il suo tema proprio, ma il libro dei Salmi contiene come una sintesi tutto quello che c'è nella scrittura, quindi riprendono quello che è stato già detto della Torah. Però i Salmi ci invitano, di fronte a questa, diciamo, pluralità di vissuti, a un'operazione di immedesimazione. Dice Agostino: se il Salmo prega, pregate, se geme, gemete, se ringrazia, gioite, se spera, sperate, se teme, temete, perché tutte le cose che qui sono state scritte sono il nostro specchio. Quindi noi, quando preghiamo i Salmi, siamo invitati a specchiarci nell'esperienza di vita che il Salmo ci racconta, con tutti i suoi chiaroscuri. André Chouraqui, che è un filosofo francese molto appassionato, ebreo, molto appassionato di scrittura, dice così: lentamente l'anima del salmista diventa la nostra anima, la sua battaglia la nostra battaglia, il suo dolore il nostro dolore, la sua agonia la nostra agonia, quella di tutti gli uomini e le donne che nei secoli dei secoli dettero la vita in questa viva fiamma. Quindi vedete che pregando i Salmi noi facciamo più che osservare da lontano come le generazioni hanno pregato, si sono messe davanti a Dio con tutta questa sfaccettatura, ma il Salmo ci insegna a fare un'operazione di immedesimazione, cioè anche noi a entrare nella dinamica tipica del Salmo. E questo naturalmente con tutta la varietà che dicevo, no? Quindi non sempre quando noi preghiamo un Salmo che ci viene offerto, quello che diciamo corrisponde al nostro stato d'animo di quel momento. È questo il gioco, no? È quello di mettersi in bocca le parole che appartengono all'esperienza di un altro e di provare a starci dentro anche con la fatica, no? A volte di assumere delle situazioni di grave sofferenza. Vedete che qui c'è una radice di fortissima solidarietà umana, no? Con tutte le situazioni di grido che salgono verso Dio, come quando gli ebrei erano in Egitto e gridavano perché erano schiavi e soffrivano, e nel libro dell'Esodo c'è scritto che Dio vede, ascolta, guarda, si china, no? Quindi tutte le situazioni che di fronte a Dio chiedono giustizia, soprattutto, quindi la preghiera di quelli calpestati che chiedono giustizia. Sempre su questo foglio che troverete, vi ho messo qualche esempio, ma molto semplice, per quanto riguarda le diverse forme, tantissime, esempi di supplica con tante sfumature, qualche esempio di lode individuale, di popolo. Vorrei sottolineare il fatto che un aspetto decisivo, centrale, è quello di invocare il nome di Dio. I commentatori dei Salmi spesso fanno osservare o la parola nome, oppure una frase che esprime l'identità profonda di Dio. Nell'ebraismo, nel mondo ebraico, il nome è questo, no? Sapete che gli ebrei non pronunciano quella sequenza, no, di quattro lettere che è il nome, diciamo, impronunciabile di Dio, perché la sua identità profonda per noi non è, diciamo, non è accessibile, no? Ecco, quindi nella Bibbia anche Dio viene chiamato con diversi nomi, ma diciamo il nome più denso è quello che Dio stesso dice quando Mosè, nel capitolo 34 di Esodo, dopo la vicenda del vitello, no, della infedeltà, quando Dio praticamente gli dice basta, mi sono stufato di questo popolo, adesso li stermino tutti, invece io e te possiamo fare grandi cose, no? E Mosè gli dice, io senza il popolo non, diciamo, non sono un interlocutore, no? Ecco. Un vero profeta che si prende carico dell'infedeltà del suo popolo, no? Allora a un certo punto gli dice Mosè, voglio vedere il tuo volto. Non è possibile, perché chi vede il mio volto muore. Allora Mosè si mette in una buca e Dio gli dice, io passerò dietro di te e tu vedrai le mie spalle. E mentre passa, dice, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri dei figli e nei figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Quindi mille generazioni per il perdono e tre o quattro per il castigo. Questo versetto, questi due versetti, sono unanimemente considerati il cuore dell'identità di Dio nell'esperienza di Israele, il suo nome. Sono 13 caratteristiche, le troveremo quando guarderemo il Salmo 150. Quindi questo aspetto del nome che va con il volto e con l'identità è un'altra esperienza molto forte che i Salmi ci consegnano. Siete ancora vivi? Sì. Ok. Ma perché io devo tenere svegli i ragazzi addormentati, quindi ho questo allenamento. Vi dico quattro parole, quattro, su questa questione della distribuzione dei salmi e poi ci mettiamo un po' a leggere qualche testo. Allora, vedrete, vi ho messo una tabellina con i numeri molto piccoli, ma poi la guardate sul computer ingrandendo, no? E praticamente i salmi da sempre hanno rappresentato il cuore della preghiera oraria. E nel Salmo si dice 7 volte al giorno io ti lodo, cioè sempre, ti lodo sempre. Allora, le comunità cristiane e anche l'ebraismo prima di loro hanno interpretato questo invito a pregare sempre con delle preghiere fissate in orari stabiliti della giornata, all'inizio mattino e sera e poi... Se ci pensate, a noi questa organizzazione fa venire in mente i monasteri. Quindi questa preghiera è stata, diciamo, adottata in modo particolare da chi aveva più tempo, soprattutto, no? E si dedicava alla preghiera. I padri raccontano che si faceva una specie di gara a chi recitava più salmi. I padri del deserto, quelli i primissimi d'Egitto, pare che riuscissero a recitare un salterio al giorno, 150 salmi. Questa cosa la dice San Benedetto nella sua regola, perché dice: ma è opportuno che noi recitiamo un salterio la settimana, perché noi non siamo come loro, siamo molto più rammolliti, no? Non riusciamo a fare come facevano, no? Quindi voi immaginatevi questo fascino di percorrere in una settimana tutto il salterio con la ricchezza che abbiamo cercato di evidenziare, no? Però ovviamente questa azione è pesante, no? Occupa completamente il tempo, quindi di fatto questo modo di stare nel salterio a un certo punto è diventato esclusiva degli ambienti monastici. Qui avete un'evoluzione, no? Vi ho messo l'ufficio romano, quello antico che va fino al XX secolo, la regola di San Benedetto e poi questa prima riforma di Pio X all'inizio del Novecento, che già vedeva che i preti non ce la facevano a dire il breviario, ok? Se voi osservate la liturgia delle ore odierna, vedete che c'è stato un grandissimo sfoltimento, le ore sono molto più brevi e il salterio viene percorso in 4 settimane, no? Ecco, quindi è stato necessario fare un'operazione che aveva come prima preoccupazione quella di salvaguardare l'obbligo dei presbiteri a recitare il breviario. Quindi vedete che negli anni 60 la consapevolezza ecclesiologica che questa preghiera è di tutti i cristiani non era molto ancora molto, diciamo, focalizzata, no? Quindi loro partono a fare questa riforma perché c'è un problema, cioè che i preti non riescono a celebrare una vigilia con 12 salmi di notte, no? Perché poi alle 9 del mattino hanno una sepoltura, poi... cioè ci sono cose da fare, non si riesce. Quindi questa liturgia delle ore, anche se poi lungo il lavoro che vi dicevo prima, no, di questo gruppo chiamato Consilium per realizzare la riforma liturgica, ha avuto una maggiore consapevolezza che questa preghiera era di tutti, quindi le ore sono diventate decisamente più brevi, raccogliendo però tutta la tradizione, quindi al mattino i salmi che secondo la tradizione stavano al mattino, alla sera, di notte, quindi non è che hanno fatto tabula rasa, no? Ma hanno preso la tradizione e hanno cercato di adattarla a una celebrazione che potesse essere ecclesiale. Però il modello, quello che da secoli veniva praticato, era un modello monastico. Nell'antichità c'era anche un modello cosiddetto cattedrale, potremmo dire lodi e vespri popolari. In cattedrale un rito molto più semplice, molti meno salmi, movimenti, gesti, canti, ministeri, capite? Cioè non il prete da solo col suo libro come Don Abbondio che cammina col breviario in mano, ma una comunità che celebra. E nel corso della storia questa realtà si è diciamo un po' smarrita. Questo significa che il libro della liturgia delle ore che abbiamo in mano noi non è uno strumento tanto friendly. Se uno non è pratico, lì a muoversi tra l'ordinario, non so se vi è capitato di entrare in una chiesa un giorno di festa, che non si usa la settimana normale, no? Bisogna saltare, poi ci sono le antifone, oddio, aspetta, ma l'inno dov'è? No, ecco, così, no? Ecco. Ma anche il telefono ha i suoi limiti. Quindi per dirvi che il Concilio Vaticano II ha fatto un lavoro immane sui salmi, molto interessante, appunto ho avuto la fortuna di andare un po' a scartabellare, però ogni azione, anche quelle ecclesiali, si radica in un tempo, in una consapevolezza. Lì stavano smontando tutti i riti, no? Avevano un lavoro pazzesco e l'esperienza che avevano della preghiera con i salmi era l'esperienza dei preti che dicevano il breviario e quella dei monaci. Il popolo di Dio non c'era, no? Ecco, quindi, come è normale, questa preghiera, pur pensata per coinvolgere tutti, dal punto di vista tecnico presenta, diciamo, alcune difficoltà. Questo ci invita, quando vogliamo pregare con i salmi, anche, come vedete, come ho fatto io, no? Una cosa molto semplice, ad attingere ai salmi, magari alleggerendo, semplificando, abbreviando, uno prende uno spunto e fa una preghiera più semplice, soprattutto. Allora, vorrei leggere con voi, ho preparato tre salmi molto brevi, leggiamo il testo, dico qualcosa, poi sul foglio vi ho messo l'essenziale, poi diciamo i salmi ve li potete anche andare a rivedere. Mi auguro che questo incontro avrà come frutto che diciamo la nostra curiosità per i salmi verrà un po' così, un po' incoraggiata. E dopodiché tenterei la sintesi, che sarebbe essere discepoli alla luce dei salmi, che è un po' quello, diciamo, dove volevamo tendere. Mi alzo. Allora, il testo, ecco, io non ce l'ho. Mariella, puoi leggere? Perché non ho il testo adesso qua. Va bene, scusate. Leggi il Salmo 1. Primo e l'ultimo prendiamo, 1 e 150. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così malvagi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Molto interessante, vedete, in piccolo c'è tutto, dicono un'ottima introduzione sul significato del libro dei Salmi. La prima parola comincia con l'Alef, la prima lettera dell'alfabeto, l'ultima parola comincia con la Tav, l'ultima lettera, come dire, in pochi versetti ti do un insegnamento che può servire per la vita, che più o meno dice l'essenziale di come bisogna vivere per essere felici. Vedete la prima parola, beato, letteralmente in ebraico vuol dire beatitudini, potremmo dire la felicità, come si fa a essere felici? Quindi una prospettiva di realizzazione e di felicità, descritta con due vie. Questo è un tema classico della Bibbia, no? E non soltanto. Quindi l'essere umano è posto di fronte a una scelta. Lì vi ho messo un riferimento del Deuteronomio, al capitolo 30, avete presente, no? Una rilettura dell'esperienza dell'Esodo alla luce dell'obbedienza alla Torah. Oggi io pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Quindi decidere quale strada intraprendere, da cui discende da una parte la benedizione e dall'altra la maledizione. Questo è un tema molto presente nel testo biblico. Anche Gesù pone delle scelte. Vi ricordate quello che costruisce la casa sulla roccia e sulla sabbia, per esempio, no? Oppure, vi ho messo questo riferimento, entrate dalla porta stretta. Quindi questa scelta nel testo della scrittura viene espresso con varie similitudini. Allora, inizialmente questa via del giusto viene descritta, vedete, in negativo. Ci sono tre verbi: non entra, non resta, non siede. Sempre più stabile, no? Uno dà un'occhiata, poi insomma sta un po' lì e poi sta lì. Quindi la tentazione, no? Che di andare là, poi diventa un po' un'abitudine e poi diventa una scelta, no? Quindi questa progressione che ci fa vedere come questo giusto eviti anche di avvicinarsi, no? A che cosa? Al consiglio dei malvagi, alla via dei peccatori e agli arroganti. E qui, come già abbiamo detto stamattina prima, vedete, qui compare subito il nemico. Cioè, al primo versetto del libro dei Salmi si capisce che la vita è complessa, che ci sono i malvagi, i peccatori, gli arroganti, il nemico, le bestie, che bisogna combattere, bisogna stare attenti, si può essere aggrediti. Questo è uno dei temi più importanti del libro dei Salmi, questa entità, il malvagio, espressa con circa 112 termini, non ha mai un nome. E non dobbiamo cadere nel tranello di pensare che sia altro da noi. Quindi è un lato dell'essere umano questo, no? Quindi il nostro compito è quello di far vivere la parte della giustizia e invece di, diciamo, di tenere a bada, di trascurare la via questa degli empi e dei peccatori. Poi dice invece qualcosa di positivo, molto interessante: nella legge del Signore trova la sua gioia, E quindi questo, il termine Torah, che nella versione greca viene tradotta con legge, anche latina, ma che in realtà nell'ebraismo ha un significato molto più ampio di insegnamento, rivelazione, è una relazione praticamente, è l'alleanza, no? Ecco, quindi diciamo questa prospettiva giuridica non è poi così significativa, è una parte, no? Una relazione che poi si concretizza in scelte che toccano anche aspetti, diciamo, della vita concreta. In questo senso ci sono i precetti che devono essere rispettati. Vedete, trova la sua gioia sulla legge, medita giorno e notte. Nel Deuteronomio 6, dopo lo Shema, quindi quando dice ascolta Israele, c'è scritto così: questi precetti che ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, te li legherai alla mano, ti saranno come un pendaglio sugli occhi. Cioè questi precetti che tu ti ruminerai, ci passerai le notti sopra, no? A un certo punto te li porterai ovunque tu vai, ce li hai nel cuore, no? Saranno sempre con te, diventeranno il tuo modo di stare al mondo. Vedete che la parola legge è ripetuta due volte. Nella scrittura le ripetizioni non sono mai a caso. Niente è a caso. Anche le parole strane vogliono dire qualcosa, no? Due volte la legge. Poi c'è la similitudine vegetale, no? Quindi questo uomo giusto che medita la legge del Signore come un albero verdeggiante piantato lungo i corsi d'acqua, quindi una immagine, immaginatevi nell'aridità, no? Un'immagine di una cosa, un percorso di vita riuscito che porta frutto, no? Giusto fiorirà come palma, quindi questa idea di una vita realizzata. C'è questo riferimento di Ezechiele 47 che dice praticamente c'è l'acqua che sgorga dal tempio, no? Lungo il torrente crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le acque sgorgano dal santuario, i loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Vedete che qui c'è un parallelismo molto interessante tra il tempio e la Torah. L'acqua che sgorga dal tempio, questo è un tema classico, no? Il tempio come il cuore della relazione tra Israele e il suo popolo attraverso i sacrifici. A un certo punto nella riflessione il tempio viene, diciamo, sostituito dalla Torah. Questo inizialmente è una necessità, perché quando Israele era in esilio il tempio era distrutto, non c'era più. Ha dovuto ricostruirsi un'identità non più attorno al tempio ma attorno alla Torah. Ecco perché questa Torah, diciamo, per l'identità ebraica è così significativa. Li ha sostenuti, li ha fatti sopravvivere in un tempo in cui il santuario non c'era più, era distrutto. Questo ci può interrogare anche sul nostro rapporto con la parola di Dio, no? Come qualcosa che ci fa fruttificare, ci rende lussureggianti, no? Come un albero che chiede di essere meditata, ma anche messa in pratica. E richiamo il discorso di stamattina, spesso ci attira la nostra attenzione sul tema della giustizia. Questo uomo di cui si traccia questo ritratto così bello è il giusto, che si contrappone all'empio, al prepotente, a quello che calpesta, ne abbiamo parlato prima. Quindi un ritratto, vedete, ci sono tre passaggi: da frutto a suo tempo, a volte bisogna aspettare molto per vedere i frutti, le sue foglie non appassiscono, tutto quello che fa gli riesce bene, non solo per merito suo, si innesta in una dinamica di benedizione da parte di Dio. C'è una parola di Gesù molto bella al capitolo 4 di Marco, dove dice praticamente che il contadino, una volta che ha buttato il seme, poi non se ne occupa più, no? E il regno di Dio, così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorme o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Quindi questo gli riesce tutto non vuol dire tanto che sarà così bravo che farà tutto bene, no? Ma che la benedizione del Signore lo accompagna in tutti i suoi, in ogni giorno della sua vita. Segue il ritratto del malvagio, vedete, non così i malvagi, come pula, quella polverina dei chicchi di grano. Giovanni Battista, quando parla del giudizio, dice che la pula verrà dispersa e buttata nel fuoco. È una roba inconsistente, priva di radici, una roba inconsistente, irrilevante. Destino dei malvagi. Perciò non si alzeranno, dicevamo prima, no? Del povero che davanti a Dio non ha neanche il coraggio di alzare la testa. Invece l'atteggiamento di chi si mette davanti a Dio dritto, così, potrebbe essere l'atteggiamento di chi è molto sicuro di sé, confida molto nelle sue forze, no? Ecco, quindi, diciamo, viene detto che ai malvagi davanti a Dio non sarà consentito, come dire, portare nessun elemento, no, a loro difesa, perché sono come la pula che viene dispersa. Conclusione: il Signore veglia sul cammino dei giusti, vedete, mentre la via dei malvagi va in rovina. Quindi una proprio piccola sintesi, no, di come Dio interpreta il cammino degli esseri umani, da una parte i giusti, dall'altro i malvagi. Adesso sì. Posso fare un cambio proprio questi giusti nel Salmo numero 1? Mi ha fatto subito venire in mente i giusti tra le nazioni. Sì. Coloro che si sono opposti e che continuano a esistere ai malvagi durante la guerra, pensando ai giusti tra le nazioni, ma ancora oggi. Però proprio questa idea dei giusti tra le nazioni sarebbe bello se, parlando di queste cose, parlando del 27 gennaio, usare questo salmo, perché se lo prendiamo e lo mettiamo in trasparenza sopra la storia, così. Beh, considerato che lo Yad Vashem nel giardino, per ogni giusto mettono una pianta, non mi stupirebbe se l'origine di quella, diciamo, di quella pratica fosse proprio il Salmo 1, no? Perché il giusto, c'è scritto proprio, non solo qui, ma nella Bibbia il giusto è paragonato a una pianta, certo, certo, è sintetico, molto... Sarebbe meglio se lo si usasse anche nella Chiesa, perché noi questa roba qui tendiamo un po' a dimenticarla, a lasciarla un po' così. Certo. Tra l'altro oggi è Rosh Hashanah. Certo. Potete ben immaginare che nella lettura cristiana questo giusto è stato identificato con Gesù e l'albero nella patristica tradizionalmente indica l'albero di vita, diciamo, viene identificato con la croce, no? Quindi uno strumento di morte che poi diventa invece occasione di, diciamo, di germoglio e di vita. Adesso saltiamo all'ultimo salmo del Salterio, Salmo 150. Adriana, lo vuoi leggere tu? Grazie. Alleluia. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento, lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza, lodatelo con il suono del corno, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde con i flauti, lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia. Ecco, questo, vedete, è il finale del libro dei Salmi. Abbiamo detto che in fondo a ogni libro c'è una dossologia, no? Quindi un'espressione della gloria di Dio. Probabilmente gli ultimi salmi del Salterio sono una dossologia di tutto il libro. Se andate a vedere, sono tutti salmi di lode molto, molto scoppiettante, molto vivace, no? Quindi una lode, diciamo, all'ennesima potenza, scandito da questa parola Alleluia. Allora, Alleluia vuol dire lodate, questo verbo che qui, vedete, in ogni versetto lo troviamo. Yah sarebbe mezzo nome di Dio, mezzo di quel nome che non diciamo, no? Ecco. Quindi noi alleluia diciamo alleluia, ma in realtà alleluia vuol dire lodate Dio, no? Quindi vedete c'è un tripudio di questa espressione che... Allora, Agostino nel suo commento a questo salmo fondamentalmente dice: canta e cammina. Questo ci servirà anche per il nostro discorso di, diciamo, dopo, no? Lodiamo dunque il Signore, fratelli, con la vita e con la lingua. La vita e con la lingua. Con il cuore e con le labbra, con la voce e con la condotta. La nostra lingua, pertanto, deve intonarsi con la vita. Vedete, no? Una unificazione tra l'espressione della preghiera e la vita, le scelte della vita. Canta e cammina, avanza nel bene, Non uscire di strada, non volgerti indietro, non fermarti, rivolgiti al Signore. Quindi prende nel suo commento lo stesso tono. Gregorio di Nissa, che è un padre della Cappadocia, osserva che il primo e l'ultimo salmo ci fanno percorrere, ci dicono praticamente l'essenziale del cammino umano. Dalla beatitudine, vi ricordate la prima parola, no? Beati? Quindi dalla beatitudine alla lode. Possiamo dire che tutto il libro dei salmi è un percorso dalla beatitudine davanti a due vie, davanti a due scelte, a una lode universale, unanime, quindi tutto un percorso di unificazione, quello che vi dicevo prima, no? Libro delle lodi, il punto di arrivo è la lode, poi in mezzo ci sono tanti vissuti, tante esperienze, tanta oscurità, i nemici, ma questo è il punto di arrivo del libro. Quindi un invito chiarissimo alla lode. E vedete, a parte i due alleluia che stanno alle estremità, abbiamo 10 imperativi, 10 come le parole di Dio nella creazione e il decalogo. Se aggiungiamo ogni vivente di lode, alleluia, alleluia, 13 gli attributi di quel nome di Dio che abbiamo letto prima nel libro dell'Esodo, no? Quindi una affermazione forte dell'identità misericordiosa di Dio, creatore, liberatore, così come Israele l'ha vissuto lungo tutta la sua storia. Poi vedete che viene un pochino contestualizzata, no? Questa lode nel santuario, certamente il santuario del cielo, la lode cosmica e diciamo delle gerarchie angeliche, eccetera, e per riflesso anche il tempio terrestre, no? Che sappiamo era il centro della vita di Israele. Il firmamento, questa è la parola che si trova nel capitolo 1 di Genesi, quando Dio fece il firmamento, no? Crea i cieli. E poi ci sono le imprese, le opere grandi, quindi quelle che nella Bibbia vengono indicate a volte come le meraviglie di Dio, quindi tutta l'opera di liberazione e di cura per il suo popolo. Quindi c'è tutto, vedete, c'è l'aspetto del Tempio, c'è la creazione e ci sono le grandi opere di Dio nella storia. Descrizione completa. Dopodiché, siccome dire di più è difficile, la parola passa agli strumenti, 7 strumenti. Il primo, vedete, il corno e lo shofar, quello che viene utilizzato ad esempio per dare l'inizio alla festa di Kippur, e poi gli strumenti tipici dei salmi, anche gli strumenti tipici della festa e delle danze. L'ultimo versetto, il versetto 6, assume una estensione veramente universale. Ogni essere che respira dia lode al Signore. Qui abbiamo questo termine Neshama che indica l'alito di vita, quello che Dio fornisce all'uomo al momento della creazione, nel capitolo 2 di Genesi. E quindi vedete che abbiamo questa lode che passa attraverso il respiro, quindi diventa quasi una attività spontanea, non cioè delimitata, no? Adesso vado in chiesa perché dobbiamo pregare, no? Un momento, ma diventa a un certo punto potremmo dire un modo di stare davanti a Dio, quindi la preghiera che si fa con naturale con il respiro. La preminenza dell'uomo rispetto alle altre creature che respirano, ma che non hanno questa neshama, diventa anche una responsabilità, no? Quindi nella lode dell'uomo lui tira dentro tutti i viventi e naturalmente discende anche una grande responsabilità nei confronti della creazione, no? Nell'averne cura, nel preservarla, nel difenderla, nel non diciamo arrecarle violenza, come diciamo una cosa che è abbastanza tipica dei nostri tempi. Quindi vedete che dal primo all'ultimo salmo intravediamo il percorso del libro dei salmi, no? All'inizio le due vie e i malvagi subito, l'invito a chinarsi sulla Torah e a essere giusti, le due cose sono indissociabili, lo studio della Torah e la giustizia, e poi questo, diciamo, finale, questa esplosione di lode che ci fa vedere un po' il, come dire, il punto di arrivo. Terzo, il Salmo 133. Questo Salmo 133 appartiene a un gruppo di salmi molto caratteristici che vanno, vedete, da 120 a 134, che si chiamano Canti delle Salite o delle Ascensioni, perché a volte all'inizio del Salmo c'è una piccola informazione, no? A volte c'è scritto di Davide Salmo, magari non l'ha scritto lui, no? Però, diciamo, oppure un'altra indicazione, per il maestro del coro, ad esempio, no? Ecco. E su questi c'è scritto Salmo delle Ascensioni, no? Allora si sono interrogati sul senso di questo, di questa dicitura, probabilmente erano legati al pellegrinaggio, quindi salmi di pellegrinaggio, cose semplici, espressioni semplici, adatte, quando uno fa una processione, non può cantare l'alta teologia, non è possibile, no? Perché il corpo ha bisogno delle sue energie, e al limite posso cantare qualcosa di molto semplice, no? Quindi sono testi molto semplici, di facile comprensione, potremmo dire popolari come contenuto, e hanno delle strutture letterarie ascendenti, una concatenazione di temi, quindi si procede. A Gerusalemme si sale sempre, dall'Egitto si sale sempre. Beh, Gerusalemme è un po' in salita effettivamente, no? Ma il senso è diverso, no? Cioè si sale, si cammina, si va verso. Ecco, no? Nella Bibbia, anche se l'Egitto fosse in alto e la terra promessa in basso, ci sarebbe scritto che si sale, no? È proprio una lettura simbolica, no? Di questa dinamica fisica e anche spirituale. Quindi un gruppo di salmi molto interessante. Noi prendiamo, per il motivo che vi dicevo, no? Questa cosa del discepolo, questo piccolo salmo 133. Vuoi leggermelo, Franca? Hai voglia? Grazie. Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme. E come olio prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. E come la rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. Vedete, molto piccolo, dice qualcosa di molto interessante, cioè dice che la dimensione della fraternità e della vita comunitaria è una componente fondamentale della vita umana, no? Dell'esperienza di Israele e della vita umana. E quindi potremmo dire che questo salmo è una piccola celebrazione della fraternità. Non dice come bisogna fare, ma la celebra, ne afferma, diciamo, la densità simbolica, l'importanza per chi vuole stare davanti a Dio, non da solo, ma all'interno di una comunità. E c'è un livello base, poi se volete ve lo andate a leggere, nel libro del Coelet, che dice delle cose sempre molto sagge, fondamentalmente si dice, beh, meglio essere in due che uno solo, no? Cioè, se vado in montagna e mi sorprende il temporale, se sono da sola, insomma, quindi meglio essere in due, beh, diciamo un livello del buon senso, no? Ecco, il Salmo, diciamo, ci conduce verso qualcosa di più denso. Voi immaginatevi l'esperienza di queste persone che nel pellegrinaggio sperimentavano le assemblee liturgiche al Tempio di Gerusalemme, ad esempio, no? Quindi certamente l'appartenenza al popolo era una consapevolezza forte, di più la partecipazione comune a questa esperienza che avveniva all'interno del santuario. E per noi, diciamo che l'analogo per noi potrebbe essere la partecipazione all'Eucaristia, no? Il momento, il luogo in cui davanti a Dio ci riconosciamo come popolo, anche noi, come popolo che celebra e che riconosce la sua presenza, celebrando. Quindi una forte esperienza, diciamo, di coesione e di vita comunitaria. Ci sono alcune espressioni su cui gli studiosi si sono soffermati, non mi dilungo ma vi do solo uno spunto, no? Cioè si sono chiesti che i fratelli siedano insieme, no? Ma veramente che cosa intendevano quando hanno scritto questo salmo, no? E quindi sono andati a cercare delle altre espressioni nell'Antico Testamento e probabilmente qui c'è un riferimento. Avete presente che a un certo punto il regno si è diviso in due, no? C'era il regno del nord e il regno del sud, quindi una lacerazione, no? Ecco, quindi forse hanno messo in relazione questo vivano insieme, diciamo, con il desiderio dell'unità, no? Una riconciliazione, desiderio di unità. L'espressione, poi il fatto che ci si riferisca ad Aronne, quindi alla barba di Aronne che viene unto sacerdote, ha fatto pensare anche a questo rapporto tra fratelli, Aronne e Mosè, che nel libro dell'Esodo ci viene testimoniato attraversa anche delle fasi piuttosto burrascose, no? Perché quando Aronne viene unto, qui Mosè non è citato, è un po' strano, no? E se ricordate, quando Mosè era sul monte che riceveva le tavole, sotto Aronne, come dire, non ha vigilato, no? Al fatto che ci sia stato questo episodio dell'idolo del vitello d'oro. Allora gli esegeti pensano che questo riferimento ad Aronne senza Mosè sottolinei anche il fatto che la fraternità ha le sue fatiche, che viviamo delle situazioni in cui la fraternità non assomiglia per niente a una situazione ideale, no? Quindi anche alla fatica della fraternità, alla fatica di passare dall'incomprensione alla fraternità, che è qualcosa che penso appartenga diciamo, alla nostra esperienza in tantissimi ambiti, anche nell'ambito ecclesiale a volte, no? Delle comunità cristiane. Poi vedete, ci sono due similitudini: l'olio prezioso che scende sulla barba di Aronne e sulla veste e la rugiada dell'Ermon che scende. Quindi l'aspetto fondamentale di queste due realtà fortemente simboliche e che scendono, no? Quindi qualcosa che diciamo è il contrario dell'ergersi di prima, no? Qualcosa che viene donato, dono di Dio, qualcosa che scende, che riceviamo, che accogliamo. La simbologia dell'olio nel mondo antico era molto ricca, anche diciamo come medicina, segno per gli ospiti, veniva usata per ungere quello che aveva a che fare con il tempio e anche i sacerdoti. E la rugiada dell'Ermon, secondo questo salmo, l'Ermon è un monte che sta a nord, diciamo al confine col Libano, monte molto alto, e un tempo innevato, adesso non so con queste nuove temperature se lo sia ancora, e ci sarebbe questa rugiada che voi immaginatevi in un posto canicolare, la prospettiva della rugiada, no? Quindi qualcosa di dissetante, di fresco, di nuovo, che dall'Ermon giungerebbe fino a Gerusalemme, distante circa 200 chilometri, no? Quindi una similitudine che dal punto di vista geografico non può esistere, ma noi ne accogliamo diciamo, l'aspetto visionario, no? Di questa rugiada misteriosamente donata da Dio che scende, che partendo dall'Ermon si diffonde dappertutto, rinfresca e disseta. E vedete che la conclusione è sulla benedizione, quindi sulla dinamica fondamentale della vita ebraica, per cui ogni dono viene ricondotto all'amore e alla misericordia di Dio. Finisco. Allora, avete uno schema? Non l'avete? No? Allora lo fate passare Allora, qui questa sarebbe la mia sintesi. 5 minuti ho finito. Ho provato a tracciare un ritratto del discepolo in base a quello che abbiamo visto stamattina. È un mio tentativo. Ho trovato questa bella frase di Romano Guardini, che è un personaggio eccezionale, liturgista, si occupava anche di arte sacra, lavorava in Germania negli anni 50, quindi molto prima del concilio, che dice così: il modo più appropriato di accostarsi ai salmi non è quello di leggerli o di studiarli, ma di lasciarsi trasportare nel loro movimento. Quindi la prima idea che mi è venuta è quella che il discepolo è una persona, un uomo, una donna che cammina. Questo tema del camminare dice uno degli aspetti fondamentali dell'esperienza ebraica, per i quali il rispetto dei precetti viene chiamato halakha, che vuol dire strada. Quindi vivere da ebreo sarebbe camminare. Quindi sicuramente Gesù era fortemente radicato. C'è un libercolo molto bello di Christian Bobin che cerca di descrivere Gesù come l'uomo che cammina. Nel Vangelo si vede, no? I discepoli di Gesù nel libro degli Atti sono chiamati quelli della via. Quindi questa idea del cristiano come uno che cammina dietro al maestro, naturalmente, mi è sembrata che potesse esserci utile, e la prendiamo dal Salmo 1. Se guardate nel Salmo 118 che abbiamo usato per la preghiera iniziale, ho scelto la via della fedeltà, quindi un'espressione che nella scrittura comunque ritroviamo moltissimo. Quindi primo aspetto, no, del cristiano, del discepolo, cammina con una direzione, con una meta. Secondo, i salmi delle ascensioni ci danno questa idea di una progressione, di un movimento ascendente che tende. Pensate alla Gerusalemme celeste del libro dell'Apocalisse, no? Questa città stupenda dove non c'è più bisogno di illuminarla perché c'è la luce di Dio, ci sono tutte le pietre preziose. Quello è quello a cui noi tendiamo. Ogni anno il tempo di Avvento ce lo ricorda, no? Che abbiamo una direzione. Agostino, nel suo commento ai Salmi delle Salite, dice così: risuona la voce di chi, con il cuore pieno di amore e di carità, ascende verso la Gerusalemme celeste, la città che sospiriamo finché ne siamo esuli e dove gioiremo al termine del nostro pellegrinaggio. Ascende verso questa città chiunque progredisce, cade e si allontana chi smette di progredire. Quindi lui rilegge i Salmi delle Ascensioni in chiave cristologica, e anche interiore, no? Quindi questa ascensione è anche un movimento interiore per cui si continua sempre a camminare, no? Quindi il discepolo cammina, potremmo dire, e sale. Poi certamente questo suo cammino, che punta a una meta, si svolge, potremmo dire, sotto la parola. Sta sotto la parola. Dicevamo stamattina che la liturgia delle ore ci insegna un modo di stare nel tempo. Pensate, non so, al tema della domenica, per esempio, al nostro modo di stare nel tempo, che tante volte veramente avrebbe bisogno di essere convertito, purificato, reso più equilibrato, no? Ecco. La sapienza della Chiesa ci offre degli spunti per stare nel tempo. Però un teologo francese che si chiama Préteaux, che insegna all'Istituto di Parigi, sottolineava anche il fatto, basandosi sull'esperienza monastica, che la liturgia delle ore, oltre che un tempo, la potremmo vedere quasi come un luogo dove stare davanti a Dio, quando dicevamo che la preghiera diventa respiro. San Benedetto nella sua regola dice proprio così: sic stemus ad psallendum, ut mens, la mente nostra, concordet voci nostre. Vi ricordate Agostino? Accordare la lingua e la vita. Quindi cosa dice San Benedetto? Quando tu nella giornata, molte volte nella giornata, con la bocca, no? Con la voce, dici i salmi, il tuo compito è un compito di unificazione. Lui dice mens, ma tutta la persona è chiamata a stare in quella dimensione davanti a Dio. Quindi anche questo Salmo 119-118, che ha tantissime strofe, è un salmo lunghissimo, e ci fa vedere questo incessante invito della scrittura e dei salmi a stare sotto la parola. In greco la perseveranza si dice hypomone, stare sotto, stare lì, non andare via, stare lì. Aggiungo che la parola di Dio chiede sempre risposta. Avete presente, no? Isaia 55, la mia parola è come la pioggia e la neve. Io non la mando mai senza che porti frutto. Ecco, quindi la parola di Dio chiede sempre una risposta, e richiamo ancora una volta il tema della giustizia. Quindi la parola di Dio ci invita ad agire anche con giustizia. Quindi un altro aspetto del discepolo, la centralità della parola, non diciamo niente di nuovo, no? È un aspetto fondamentale dell'esperienza cristiana. Un altro aspetto che prendo da quel discorso dell'immedesimarsi dei salmi, no? Il discepolo si immedesima in ogni vissuto umano, lo fa suo. Guarda con amore, ascolto profondo, il cammino dei fratelli e delle sorelle, anche quelli che zoppicano nella loro debolezza. Ne accompagna i passi. Come gli Anawim, questi poveri, lui stesso è consapevole della sua povertà. Non ha paura di gridare, di invocare, di lamentarsi, come i salmisti. Non ha paura di passare nell'oscurità, di attraversare l'oscurità. E forse avete presente che nell'esperienza pasquale Gesù scende agli inferi. Ci sono le icone ortodosse che fanno vedere Gesù risorto, che rompe le porte e tira su Adamo ed Eva, i patriarchi, eccetera. Cioè apre gli inferi, fa entrare la luce negli inferi. Quindi il cristiano che attraversa l'esperienza pasquale di Cristo non può dubitare che anche queste oscurità terribili possano essere illuminate dalla luce della Pasqua. Quindi anche le cose più tragiche che noi leggiamo nella scrittura dei salmi possiamo sempre credere che sono dei terreni oscuri dove la luce di Cristo può portare vita, vita invece della morte. Quindi grande solidarietà e una verità anche nei confronti dell'oscurità degli esseri umani. Aperto alla lode, andiamo là, abbiamo visto il Salmo 150, allora dico ancora una cosina e concludo. Sefer Tehillim, allora dicono, ma sto libro delle lodi, però, cioè, tre quarti sono lamenti, ma perché l'hanno chiamato così? No? Risposta: perché la lode è punto di arrivo, no? Poi Roberto Vignolo dice che poi, anche grammaticalmente, sta roba non sta in piedi, perché Tehillim è un plurale maschile e lodi è femminile. Allora, quando nei testi biblici ci sono delle cose strane, delle sgrammaticature, delle cose strane, spesso dietro c'è qualcosa, no? E c'è questa tecnica che si chiama Midrash, no? Quella di riflettere sui testi dicendo altre cose, raccontando, eccetera, no? Avevo un bellissimo libricino di Paolo De Benedetti che diceva che il midrashista è come uno che passa il dito su una superficie. Dove è liscio non c'è niente, no? Dove ci sono i granellini, le cose strane, vuol dire che lì c'è qualcosa, no? Allora gli esegeti hanno detto, beh, questo plurale è così sbagliato. Probabilmente vogliono proprio attirare la nostra attenzione su questa cosa della lode, no? Per farci vedere che non ci dobbiamo fermare alla superficie, no? Un libro di lamenti, cosa c'entra con la lode? Ecco, no? Quindi questo aspetto della lode come una direzione che ci illumina anche quando, diciamo, sembra che ci sia proprio l'oscurità. Quindi mi sembra che il discepolo abbia proprio come vocazione, la vocazione alla lode e al rendimento di grazia, che è un'altra dimensione simile. In questo di nuovo richiamo l'Eucaristia, perché la parte, la seconda parte della celebrazione eucaristica è proprio questo, un rendimento di grazie. Pensate a quella bellissima poesia che si chiama Prefazio, il Signore sia con voi, con il tuo spirito, eh? Noi ti lodiamo Padre perché, ecco, questo è proprio ogni domenica un allenamento a rendere grazie e a lodare Dio per le sue meraviglie e le sue benedizioni. Quindi cosa fa? Cammina in salita sotto la parola, non ha paura dell'oscurità, condivide tutto con tutti, però non perde di vista la direzione. Ultima osservazione, anzi penultima, chiamato alla vita comunitaria, questo ce l'ha insegnato Salmo 133, e vi ho messo lì una, siccome si parla dell'olio profumato, no? Nel Salmo, una piccola citazione di questo bel testo di Nicola Cabasilas, che è un autore ortodosso ma posteriore, dove praticamente fa vedere come questo profumo di Cristo poi siamo chiamati anche a diffonderlo, no? A volte anche la liturgia con il crisma ci fa questo richiamo. L'ultima cosa è la benedizione che concludeva i salmi che abbiamo visto prima, sia l'uno che il 133, quindi un atteggiamento davanti a Dio. Nella lettera ai Romani, quasi al fondo della lettera, c'è scritto così: benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Vedete che c'è tutto qua, no? Non nutrite desideri di grandezza, a testa giù, volgetevi piuttosto a ciò che è umile, non stimatevi sapienti da voi stessi, non ergetevi, non rendete a nessuno male per male, cercate di compiere il bene davanti a tutti, se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Quindi questo discepolo che riconosce il dono di Dio in ogni cosa, a sua volta si fa promotore, no? Perché poi questa giustizia che noi chiediamo a Dio, c'era Domenico Mosso, che era un fantastico liturgista con cui ho avuto la fortuna di fare un corso di liturgia, che diceva: la preghiera dei fedeli è una cosa impegnativa, perché quello che noi chiediamo a Dio, poi dobbiamo cominciare a farlo noi. Signore, fa che tutti abbiano da mangiare. No? Signore, fai giustizia. Quindi questa giustizia di cui abbiamo parlato tante volte oggi, no? Che è la cifra proprio dello sguardo di Dio sul mondo, poi diventa il compito del discepolo. Concludiamo in gloria cantando. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Alleluia, lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Grazie, buona domenica. Grazie. Tu ringrazi noi, ma noi ringraziamo te, no? È stata veramente una bellissima mattinata. Chi ti conosceva sapeva che eri brava, chi non ti conosceva adesso lo sa. Entusiasta. Quindi è veramente una grazia quest'altra che ci hai regalato. Grazie anche a Franca che è riuscita ad intercettarti.